Ciao, qui Michele. Io quando riesco uso storie e giochi per progetti di attivismo, cose legate al sociale, eccetera, o anche solo per conoscere gente e farla conoscere. E basta. Una zuppa di sasso di Anne Vogelade. È notte. È inverno. Un vecchio lupo si avvicina al villaggio dove vivono gli animali. La prima casa che incontra è quella della gallina. Il lupo bussa alla porta. Toc toc toc. Chi è? Chiede la gallina. E il lupo risponde: sono il lupo. La gallina si spaventa. Il lupo! Non aver paura, gallina, sono vecchio e non ho più neanche un dente. Lasciami scaldare il tuo caminetto e permettimi di preparare la mia zuppa di sasso. La gallina non sa cosa fare. Certo, non è tranquilla, ma è curiosa. Non ha mai visto un lupo dal vero, lo conosce solamente dalle storie. E le piacerebbe molto assaggiare una zuppa di sasso. Chi non vorrebbe assaggiarla, no? Quindi decide di aprire la porta. Il lupo entra. Sospira e chiede, anzi prima si schiarisce la voce: gallina, per favore, portami una pentola. Una pentola? Si spaventa la gallina. Senti gallina, c'è pur bisogno di una pentola per preparare una zuppa di sasso. Non lo sapevo, ammette la gallina. Non l'ho mai assaggiata. Allora il lupo comincia a spiegare la ricetta. In una pentola mettere un grande sasso, aggiungere acqua e aspettare che bolla. Tutto qui? Chiede la gallina. Sì, questo è quanto. E io nelle zuppe, nelle mie? Dice la gallina. Aggiungo sempre un po' di sedano. Sì, può dare sapore, dice il lupo. E tira fuori dal suo sacco un grande sasso. Ma il porcello ha visto il lupo che entrava nella casa della gallina, è preoccupato. E quindi decide di bussare alla porta. Toc toc toc. Tutto bene? Entra porcello. Con il lupo stiamo preparando una zuppa di sasso. Il porcello si stupisce. Una zuppa di sasso? Soltanto con un sasso? Certo, risponde la gallina. Ma si può aggiungere un po' di sedano che dà sapore. Il porcello chiede se si possono aggiungere delle zucchine. Si può, dice il lupo. Allora il porcello corre a casa sua e ritorna con delle zucchine. Ma l'oca e il cavallo hanno visto il lupo che entrava nella casa della gallina. Sono preoccupati e bussano alla porta. Toc toc toc. Entrate pure, dice la gallina. Il lupo, il porcello e io stiamo preparando una zuppa di sasso. E il porcello precisa, con un po' di sedano e di zucchine. E l'oca, che ha viaggiato molto, sostiene di aver assaggiato una volta, in Egitto, una zuppa di sasso. E che c'erano anche i porri. Se ne ricorda bene perché il porro è ciò che preferisce nella zuppa. La gallina chiede al lupo, è possibile fare una zuppa di sasso con i porri? Sì, è possibile, risponde secco il lupo. Allora l'oca e il cavallo corrono a casa loro e ritornano con dei porri, ma la pecora, la capra e il cane sono preoccupati perché hanno visto il lupo che entrava nella casa della gallina. Non hanno bisogno di bussare alla porta perché questa è già spalancata. Ma cosa state facendo? Chiedono. Il lupo, il porcello, l'oca, il cavallo e io stiamo preparando una zuppa di sasso, risponde fierissima la gallina, che nel frattempo ha indossato una meravigliosa collana di perle, quella delle grandi occasioni, quella di quando ci sono ospiti a casa. Potete immaginare il seguito. Uno vuole le rape, quell'altra propone il cavolo, poi ognuno corre a casa propria e ritorna con le verdure, verdure per tutti i gusti. Ma si mangerà anche, ma chi lo sa. Ora tutti siedono in circolo intorno al camino, si raccontano barzellette, discutono di politica, discutono di sport, gattini e calzetti. È vero? È assolutamente vero. La gallina esclama, oh, com'è bello essere tutti insieme, dovremmo organizzare delle cene più spesso. All'inizio pensavo che avremmo mangiato un brodo di gallina, dice il porcello. E l'oca chiede al lupo di raccontare qualcuna delle sue terribili storie per conoscere il suo punto di vista. Ma l'acqua bolle nella pentola e il lupo l'assaggia con il mestolo. Credo che la zuppa sia pronta, dice. Il lupo serve tutti gli animali. La cena dura fino a tardi. Pensate che ognuno degli animali presenti si serve per ben 3 volte. Poi il lupo tira fuori dal suo sacco un coltello appuntito e infilza il sasso. Non è ancora cotto, dice. Se permettete, me lo riprendo per la cena di domani. La gallina a quel punto gli chiede: te ne vai di già? Sì, risponde il lupo, ma vi ringrazio per questa bella serata. Tornerai presto? Chiede l'oca. Il lupo non risponde, ma non credo che sia mai ritornato al villaggio degli animali. E qui finisce questa storia. Certo.